É uma cobra, é um pau. É João. É José. Stupid like I love you. Martedì 13 aprile, ciao a tutte e tutti. Prova. Buonasera Fabio, ma che strana a volte, Sì. Che strana, a volte funziona. Non so cosa, ma ti do ragione. Non lo so manco io, comunque. Allora, andiamo. Vabbè, non abbiamo detto nulla di sconveniente. I microfoni quindi non aperti. Dammi un attimo che ci chiamano. Ci hanno ripensato, si sono arresi pure loro. Allora, dove andiamo oggi? Oggi recuperiamo il tempo perso, quindi andrò molto veloce. Oggi abbiamo provato a costruire una scaletta. No, abbiamo costruito una scaletta. E mettendo insieme 12 duetti che per noi, insomma, sono particolarmente belli o significativi. Nei duetti abbiamo innanzitutto parliamo solo di musica straniera e ci siamo ripromessi di fare un'altra puntata del genere dedicata alla musica italiana. In questo caso appunto abbiamo scelto solo artisti stranieri, abbiamo evitato i duetti troppo ovvi, nomi troppo grandi e insomma le collaborazioni che tutti conosciamo. Abbiamo cercato qualcosa di un po' meno noto, un po' meno conosciuto, nei limiti, perché poi ci sono anche altri pezzi. Ma sì, ci stanno un particolarmente sacco di belle cose. Noti anche nella nostra scaletta. Il criterio che abbiamo utilizzato è forse abbastanza ovvio, abbiamo cercato di scegliere quei pezzi, quelle sinergie, quelle collaborazioni che aggiungono, che non fanno, non è solo la somma 1+1=2, ma insomma in quei casi in cui una collaborazione è andata oltre i due singoli artisti che si sono appunto confrontati in un duetto. Ho parlato anche troppo, Ale, allora partiamo. Comincia tu. Senti, che poi qua tra l'altro per partire non facciamo altro che skippare qualche traccia indietro, perché partiamo proprio con un brano che è contenuto in questo splendido Road to Memphis di Booker T. Jones, album che ci presta ogni settimana la sigla. Booker T. Jones, che tra l'altro ha anche fatto il radioabbonamento per Radio Onda Rossa, vi invitiamo a farlo anche voi, che è 30 euro, trovate tutte le informazioni sul sito, mi raccomando. Dunque, tra pochi giorni, a maggio del 2011, 10 anni compie questo disco, The Road from Memphis appunto, dove Booker T. viene accompagnato da alcuni membri dei The Roots e quella alcuni ospiti, come per esempio Lou Reed, o come nel caso del brano in cui ci stiamo per... per ascoltare la divina Sharon Jones e Matt Behringer dei The National. Il brano si chiama Representing Memphis, inizia qui la nostra puntata dedicata ai duetti. Get up to Orange Mound. We'll We Representing Memphis su Radio Onda Rossa. Abbiamo superato quei piccoli problemini che avevamo all'inizio e quindi andiamo spediti verso la prossima traccia, che è un po' il nostro omaggio ad un grandissimo artista scomparso 5 anni fa, tra pochi giorni, il 21 aprile, ovvero Prince. E il nostro omaggio lo facciamo con un brano insieme a Sheena Easton. Lei è una cantante, attrice scozzese che nel 1881 ha raggiunto 1881 ha raggiunto una fama importante internazionale grazie a For Your Eyes Only, brano tratto dall'omonimo film di 007 Solo per i tuoi occhi, un successo quello che negli anni 80 si è portata avanti la Easton, regalandosi anche una serie di importanti collaborazioni, tra questa quella del 1987 appunto con Prince in You Got the Look, uno dei singoli del capolavoro Sign of Times, scritta inizialmente Prince non l'aveva pensata come un duetto, aveva chiesto alla Easton di raggiungerlo in studio per cantare nel coro del brano, ma poi in fase di registrazione ha deciso di darle questa forma a due, che è appunto quella che conosciamo oggi. Poi le collaborazioni tra Prince e la Easton sono andate avanti nel corso delle rispettive carriere, spesso si scrivevano brani a vicenda, però non si accreditavano oppure apparivano con nome di fantasia, e comunque You Got The Look arrivò, fu un successo importante, arrivò al numero 2 delle classifiche americane, ricevette 2 nomination ai Grammy, uno per la migliore canzone Rhythm Blues, premio che fu vinto poi da un brano di Bill Withers, e un altro come migliore interpretazione vocale Rhythm Blues di un duo o di un gruppo. Anche qui non vinsero a farlo, furono Aretha Franklin e George Michael. Invece Sign of Times ottenne anch'esso una candidatura come album dell'anno, neanche questa volta Prince ce la fece. Indovina chi vinse quell'anno, vai. Non c'ho idea. 1987. Vai, miglior album. Miglior album. Miglior album. 3, 2, 1. Non lo so. Gli U2. Di Joshua Tree. Di Joshua Tree, esattamente. Io ero convinto fosse 86. Esattamente. Okay. Comunque, su Prince l'attualità ci dice che a luglio del 2021 è in uscita uno dei tanti dischi che diciamo è stato incompiuto, quindi verrà ripubblicato a luglio dalla sua, la sua famiglia, la sua fondazione, che ci dice che per i prossimi 15 anni potrebbero andare avanti pubblicando un album ogni mese. Speriamo che quantomeno siano tutti di ottima qualità, che non macchino la carriera di questo grandissimo artista. Prince, You Got The Game, insieme a lui c'è Sheena Easton e questa è Radio Onda Rossa. Versus girl in the world series of love. E lui era Prince, You Got the Look. Oh, se vuoi fare qualcosa. No, no, se mi lasci far fare se qualcosa. Se mi lasci non vale, eh. Senti, no, cambiamo decisamente sonorità. E questa che presentiamo adesso è una delle sole due coppie di uomini che abbiamo in scaletta. Poi non abbiamo neanche fatto dei propositi. Insomma, lavorando ci siamo accorti che poi erano la gran parte dei duetti erano composti da una voce maschile e una voce femminile. Forse una ragione c'è. In questo caso sono due uomini, sono Bill Callahan e Will Oldham, cioè Bonnie Prince Billy. I due insieme dalla scorsa estate hanno cominciato una volta a settimana a pubblicare pezzi insieme, appunto, e tutte cover di nomi importanti, Lou Reed, Cat Stevens, Hank Williams, Steely Dan, Robert Wyatt, anche altri nomi meno noti, insomma, hanno cominciato a fare questo, non so se è partito con un gioco o se è partito già con un programma, comunque di fatto sono già arrivati a 21 pezzi, speriamo che qualche etichetta prima o poi, probabilmente tra la Drag City, che prima o poi li pubblicherà. Sono in streaming stanno ora, no? Per ora sono solo di streaming su tutte le piattaforme che immagini, da YouTube, Spotify, eccetera eccetera. E tra le canzoni, insomma, chi come me aspettava il lunedì, perché ogni lunedì pubblicano il pezzo ogni lunedì, ormai è già un mesetto credo che non esce più nulla di nuovo, quindi credo che questo progetto sia arrivato alla sua fine. Comunque un lunedì il nome che ha sorpreso me, ma come ha sorpreso tutti i fan dei due cantatori, è stato il fatto che hanno scelto la cover di Billie Eilish, la cover di una canzone magnifica di Billie Eilish che si chiama Wish You Were Gay, canzone contenuta nell'album di debutto dell'artista americana. È straniante l'effetto, perché poi il testo parla, l'ha scritto lei ancora adolescente, e lei è ancora giovanissima, questo pezzo risale ai 14-15 anni, raccontato quando lei ha preso una cotta per un ragazzo, la cotta non era ricambiata, lei ha detto ma almeno fossi gay, questo era semplicemente il senso del titolo, il senso della canzone. Quindi è un po' strano sentirla cantare da due cinquantenni, da due uomini cinquantenni. E un altro elemento da sottolineare del pezzo è il fatto che riescono a far convivere due arrangiamenti completamente diversi del pezzo. Da una parte c'è la lettura molto classica, tradizionale, folk del pezzo, dall'altra parte ci sono dei arrangiamenti che richiamano un po' il city pop giapponese degli anni 70-80, quindi la drum machine, tutte delle tastierine. Questa parte è quella che un po' ricopre Bonnie Prince Billy, cioè Will Oldham. Spero che la canzone vi piaccia. Quindi loro sono Bonnie Prince Billy, Bill Callahan, la canzone Wish You Were Gay. Well, baby, I don't feel so good. Six words you never understood. I'll never let you go. Five words you'll never say. Laugh along like nothing's wrong. 4 days has never felt so long. If three's a crowd and two was us, one slipped away. And I just want to make you feel okay. But I didn't want to stay. And I just kind of wish you were gay. Is there a reason we're not through? Is there a 12-step just for you? Our conversations all in blue. 10 fingers tearing out my hair. 9 times you never made it there. I ate alone at 7. You were 6 minutes away. How am I supposed to make you feel okay? When all explanation. Don't say I'm not your type. Just say I'm not your preferred sexual orientation. Oh, I'm so selfish. Yeah, yeah, yeah, selfish. But you make me feel so helpless. And I can't stand another day. Stand another day. I just wanna make you feel okay. Callan e Bole Prisbilli a Radio Onda Rossa. Dunque andiamo avanti, metto un po' di ritmo, perché il prossimo duetto nasce innanzitutto da un'amicizia, ovvero quella tra Frank Zappa e Don Van Vliet, in arte Captain Beefheart. E dunque i due si conoscono dai tempi del liceo, andavano a scuola insieme a Lancaster in California, abitavano anche in due case molto vicine, hanno trascorso tantissimo tempo insieme, tante giornate chiuse in stanza ad ascoltare vecchi dischi di blues, hanno iniziato a suonare insieme, poi a un certo punto le loro strade si sono divise, con Beefheart che per un periodo ha lasciato la musica, fu proprio Zappa a convincerlo a riprendere. Certo, musicalmente i due sono agli opposti: da una parte la ricerca, lo studio maniacale per la teoria musicale, la perfezione dell'esecuzione ovviamente dalla parte di Frank Zappa, e dall'altra parte uno che invece faceva fatica anche ad andare a tempo, accusava molto il fatto di non saper suonare. Beefheart registrerà una parte vocale sul disco di Zappa Hot Rats, Zappa gli produrrà il capolavoro True Must Replica, un album la cui registrazione già altrettanto incredibile quanto il suo contenuto. Non è questo però il momento per raccontarlo, ci basta sapere che i rapporti tra i due si logorano proprio durante la produzione del disco di Beefheart, iniziano a lanciarsi insulti tramite stampa, poi nel 1975 a causa di alcuni problemi contrattuali Beefheart, meno male che non c'erano i social, infatti immaginati, si trova in difficoltà e va a chiedere aiuto al vecchio amico Frank, che comunque non ha mai nascosto la sua stima. I due si riavvicinano, partono per un tour e a maggio del 75 si esibiscono nel mitico Armadillo World Earthquaker di Austin in Texas. Poi da quel concerto, con l'aggiunta di altri brani che furono registrati durante le session in studio del disco precedente, ovvero One Size Fits All, nasce Bongo Fury, che è appunto il disco dal quale ci ascoltiamo questa traccia. E qui c'è anche questo duetto vocale tra Zappa e Beefheart, che poi si trasforma anche in duetto strumentale, da una parte la chitarra di Frank e dall'altra l'armonica. La canzone si chiama 200 Years, poi da lì i problemi tra i due continueranno, questa però è un'altra storia, la racconteremo in un altro momento. Una curiosità: Bongo Fury è il primo disco di Zappa senza che siano accreditati i Mothers of Invention, e questa è 200 Years Old. E a casa mia Frank Zappa fa rima con Trillino e quindi riparte. I was sitting in a breakfast room in Allentown, Pennsylvania, 6 o'clock in the morning. Got up too early, it was a terrible mistake. Sitting there face to face with a 75-cent glass of orange juice about as big as my finger and a bowl of horribly foreshortened corn flakes. And I said to myself, this is the life. She's 200 years old. She tried to grow a mustache. Io ti avrei voluto vedere a te un paio di settimane con Zappa. Da sì, così è così. Dici, mi avrebbe addrizzato. Mamma addrizzato. Mia, che riaddrizzata che te dava. Senti, anche qui un'altra volta cambio decisamente genere e atmosfera. Questa a me personalmente è la prima coppia di cantanti che è venuta in mente quando abbiamo deciso con Alessandro di fare una puntata dedicata ai duetti. Lei, la parte femminile, è Alison Krauss. Forse in Italia, anzi certamente in Italia non è conosciutissima, però è una cantante bluegrass che ha collezionato milioni e milioni di copie vendute negli Stati Uniti e fino a questa a quest'ultima edizione dei Grammy era l'artista femminile ad averne vinti di più. Non ricordo il numero, ma so che l'ha superata Beyoncé appunto in quest'ultima edizione. Lui invece, lo sentite anche sotto mentre parlo, è Robert Plant e non credo che abbia bisogno di ulteriori presentazioni. I due nel 2007 hanno pubblicato un disco magnifico che si chiama Rising Sand, è proprio il disco, un distillato di come si fanno i duetti, nel senso è un disco, ne parlavamo prima con Alessandro, che davvero è tutto nato non da una singola operazione magari un po' furba oppure da due vecchi amici che si incontrano, è proprio un disco pensato e insomma è suonato e creato da due persone, da due artisti così importanti insieme nelle loro differenze. L'album è composto da 13 canzoni. La gran poi parte... anche, scusami, anche in copertina, no? Cioè, negli stessi capelli, nello stesso profilo, stesso maglione, gli stessi pantaloni. Proprio sì, sì, pure fatti... no, il booklet pure del disco è molto bello. Dicevo, è uscito dal 2007, si chiama Rising Sand, 13 canzoni in scaletta, la gran parte sono, scusate, sono cover. Vi faccio qualche nome giusto per capire da che parte stiamo. Le cover sono di Van Sant, Gene Clark, Avery Brothers, Tom Waits, insomma, e nomi di peso. Tra le canzoni che fanno parte della tracklist c'è anche, l'abbiamo passata qui qualche tempo fa, Please Read the Letter, una canzone che Robert Plant scrisse insieme a Jimmy Page per un album che i due, trascurabilissimo, i due fecero insieme nel 98, che si chiama Walking into Clarksdale. A chi l'hanno plagiata? Non l'hanno plagiata a nessuno. Era per stuzzicarla. La produzione dell'album è di T-Bone Burnett, e tra i musicisti coinvolti nell'album c'è Mark Ribot, che in questo genere di sonorità, diciamo, desertiche, per capirci, si trova proprio a suo agio. È un'autentica, sì, autorità. Vabbè, l'abbiamo già detto, la voce di Plant si sposa in maniera superba con la voce di Alison Krauss, creano intrecci vocali assolutamente da brividi, e se vi consigliamo di ascoltarlo tutto l'album. Non c'è pochissima elettricità nell'album, anzi si può dire che è quasi completamente acustico. Tra le eccezioni, ed è il brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare, c'è Killing the Blues, qui fa una timida comparsa, un po' l'elettrificazione, c'è anche una pedal steel. Sembra una canzone nata proprio per sottolineare la commistione tra i due generi, tra il rock da cui viene Plant, di cui è uno dei padri Robert Plant, e il bluegrass, appunto, cantato da Alison Krauss. Anche in questo caso si tratta di una cover. Il pezzo originale è uscito nel 1977 nell'unico album solista di un tale che si chiama Roland Salley. Forse qualcuno lo ricorderà se è fan di Chris Isaak, perché suonava come bassista e come chitarrista, bassista e seconda voce nella band, appunto, di Chris Isaak, che si chiamavano i Silverton, o si chiamano ancora, non lo so. La canzone Killing the Blues è stata cantata anche da altri artisti, tra questi citiamo John Prine. Noi però ci ascoltiamo la magnifica versione di Robert Plant e Alison Krauss. Robert Plant. Madonna, mi ero rilassato troppo questa canzone. Ho visto. Io ero impegnato, l'hai fatta finire proprio quando, nel momento peggiore. Ok. Vabbè, un classico proprio. La prossima coppia in scaletta è composta dalla cantautrice Neko Case e da Eric Bachmann, che è il cantante e il chitarrista di un gruppo che si chiama Crooked Fingers, che si chiamava. I due hanno duettato insieme due volte. La prima volta nella Your Control, che è la canzone che, se non vado errato, è sotto la mia voce. Era il 2008 e la canzone faceva parte di un album dei Crooked Fingers chiamato Forfeit Fortune. Nel 2018, e questa volta per un album, per l'album Alone, della di Neko Case, hanno invece cantato insieme la magnifica Sleep All Summer. E Sleep All Summer è un brano dello stesso Bachmann, è la punta di diamante, diciamo così, di un album dei Crooked Fingers del 2005, e sottovalutatissimo, si chiama Dignity and Shame. Nella versione originale Bachmann duettava con Robin. No dai, Bachmann duettava con una tale Lara Majaretkin. I risultati erano ottimi, la canzone originale è bellissima, però nella versione che ascolteremo con Neko Case il pezzo vola decisamente più in alto, superando in intensità e credibilità sia la versione originale che la cover che fece prima di Neko Case e che fecero i National insieme a San Vincent. Credibilità nel senso che sembra davvero di ascoltare la canzone che la coppia in crisi è quella che sta cantando. Ho anticipato, ho fatto spoiler da solo, la canzone appunto racconta di una coppia in crisi, due che si sono lasciati, ma dopo tanto tempo insieme faticano, si sentono soli, si sentono incapaci di farcela senza l'altro, e ognuno vuole tornare dall'altro, ma nello stesso tempo entrambi ne realizzano che se tornassero insieme tornerebbero agli stessi vecchi problemi, tornerebbero una minestra riscaldata, tornerebbero a sbattere contro gli stessi scogli gli scogli che non sono riusciti a superare. Non mi fa perdere la concentrazione. Comunque il tema è vero, è trito e ritrito, però il testo è davvero bello e c'è qualche frase che resta inchiodata. Bachmann a un certo punto canta "I will change for you, but baby, that doesn't mean I'm gonna be a better man", cioè che voglio cambiare per te, ma non è detto che questo cambiamento mi renda migliore. E in un tweet Neko Case ha scritto che Sleep All Summer è la ballata più triste che conosce, e che insulta quello stronzo, questo è tra virgolette, che insulta quello stronzo di Eric ogni volta che lo vede, per averla scritta. Noi ce l'ascoltiamo, Sleep All Summer, Neko Case insieme a Eric Bachmann. Weary song, sleep tonight, go crashing into the ocean, cut the line that ties the tide and moon, ancient and blue. One day you could find it in the sand and hold it in your hands again. Sleep All Summer, beati loro, aggiungo io. Comunque andiamo avanti perché stiamo ovviamente un pochino in ritardo. Il prossimo brano è tratto dall'ultimo album di Demetra Banard, si chiama Ma, il fricchettone, come lo chiami tu? Beh, sì, però lo chiami così, con sta vocina. No, non, cioè, non era un giudizio. Vabbè, comunque, era una constatazione. Però ecco, dico non dico. Comunque, cantatore statunitense, classe 1981, la voce che ospita è quella di Vashti Bunyan, cantautrice folk inglese con un cammino artistico piuttosto inusuale. Lei ha iniziato nel 1965, dopo 5 anni di carriera, quindi nel 70, a seguito della poca considerazione da parte della critica per il suo album dell'epoca, Just Another Diamond Day, e decise di ritirarsi dalla carriera musicale. Si rifugia in un'isola scozzese, mette su famiglia, 3 figli e passa i successivi 30 anni decidendo di isolarsi appunto e vivere a contatto con la natura. Nel 2000 però qualcosa evidentemente di sopito si risveglia e lei dice no, però alla fine quel disco secondo me non era per niente male, quindi si mette alla ricerca dei master dell'album che era uscito 30 anni prima, trova un'etichetta disposta a ristamparlo e a distribuirlo, e probabilmente anche contro le sue previsioni ha un ottimo riscontro di vendite, tanto da convincersi di tornare in studio. Nel 2005 esce il nuovo disco, la sua carriera anche in maniera inaspettata si rilancia, al suo interno ci sono alcuni ospiti, c'è Joanna Newsom, c'è Demetra Banard appunto, e poi altri 7 anni prima di realizzare il suo terzo disco Heart Lap, ancora ospite con Banard. Anche Vashti Bunyan a questo punto partecipa alcuni album del collega. Questo è uno di questi casi. La canzone bellissima si chiama Will I See You Tonight. Gets me drunk on distance, and every night feels the same. In this faraway place, Che fricchettone, eh? Sì, ma portami un caffè, però. Poi ogni tanto sti flowers. Dai, che è tardissimo, andiamo veloci. E che vuoi da me? Premessa, Murder Ballads, che immagino conoscerete, è uno dei dischi più belli e più fortunati della carriera di Nick Cave. La gran parte del merito va certamente ai duetti presenti nell'album. Henry Lee, insieme a Pauline Harvey, la stiamo ascoltando in sottofondo, certamente a parte del merito, e ancora di più, quantomeno per quanto arriva al grande pubblico, cioè ancora più merito, scusate, c'era certamente il singolo che nel 95 lanciò l'album, Where the Wild Roses Grew, duetto con la cantante e attrice australiana Kylie Minogue. La canzone, che racconta l'assassinio di una donna, si sviluppa come un duetto tra la vittima e il suo carnefice. Nick Cave scrisse il testo pensando proprio alla Minogue, per la quale pare ebbe proprio una vera e propria ossessione. Compose parecchie canzoni per lei, ma nessuna gli sembrava all'altezza, e quando invece scrisse Where the Wild Roses Grow capì che era quella giusta, gliela inviò, e sempre la leggenda racconta che lei rispose subito la mattina successiva accettando la proposta di Nick Cave. Parlando dell'attrazione che provava per la Minogue, Nick Cave spiegò che ha a che vedere con la sua bellezza e la sua innocenza, in un certo senso, con il suo approccio non cinico alle cose. Insomma, purezza e dannazione era questo legame qui, questo legame nascosto, appunto, tra purezza e dannazione, che interessava Cave. E just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. Scusate, ma mi stavo letteralmente strozzando. Vabbè, ho già parlato abbastanza. Comunque, questo, ripeto, perdonate che ho spiegato male prima, insomma, la purezza e la dannazione sono il legame che interessa a Cave, e che esplora attraverso l'intrecciarsi del suo timbro così scuro, così cupo, con invece la voce agli antipodi della pop star australiana. Anni dopo, nel 2019, quando ancora si facevano i concerti, Kylie Minogue e Nick Cave sono stati protagonisti di uno dei momenti più belli del festival di Glastonbury. Nel bel mezzo della performance della cantante australiana è comparso infatti Nick Cave, e i presenti sono stati molto fortunati, perché hanno assistito al remake della loro storica collaborazione. Recuperato in rete, si trova facilmente su YouTube, perché merita davvero. Nick Cave insieme a Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grew. I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled for a love. lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that ran down my face. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you find those? Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. Nick Cave e Kelly Milong in questa puntata di Note Cose Città dedicata ai duetti. Andiamo avanti, ce ne abbiamo ancora due o tre se non sbaglio. E se Frank Zappa e Captain Vifert erano due artisti molto distanti tra loro, ancora più distanti probabilmente non solo come artisti, anche per il loro passato, lo sono Isobel Campbell e Mark Lanagan. La prima cresciuta a Glasgow da genitori che le impartivano un'educazione molto rigida, a 12 anni le fanno iniziare a prendere lezioni di violoncello a scuola. L'altro, Mark Lanagan, che invece è cresciuto nello stato di Washington e lui a 12 anni conosceva già per la prima volta il carcere perché stava rubando alcolici in un negozio della sua città. Poi nel 1996 la Campbell entra come violoncellista nei Belle Sebastian, in questo mondo diciamo così pop molto semplice, insomma, senza sminuire nulla, semplice non in senso dispregiativo, caro Fabio. E Mark Lanagan invece entra in un periodo particolarmente difficile della sua vita, tra dipendenze, ricoveri, arresti e lo scioglimento degli Screaming Trees. Anche musicalmente il grunge degli Screaming Trees opposto proprio al gruppo dei Belle Sebastian. Poi nel 2002, quando la Campbell lascia Belle Sebastian, è in cerca di una voce maschile con cui fare un duetto per le sue canzoni e rimane folgorata da un concerto di Mark Lanagan, dalla sua voce. Dice: per un periodo ne ero assolutamente ossessionata dal dolore che conteneva, per cui lo contatta. Nel 2006 inizia questa collaborazione che durerà per 3 album, in 5 anni li realizzeranno, e questo è dal loro ultimo lavoro, Come Undone. Come The time is on my side. Don't make sense of it all. Despite my foolish pride, it's got me on my knees, tearing up my heart and shaking at my bones, tearing me apart. I can't get close to you. I come undone. I come undone. Come undone. Your stone. Time can break your heart. And if I had the chance, we never have to part. Took my only flame, took my one desire, threw it all away when jumping in the fire. Can't get close to you. Come undone. Come undone. Come undone. Baby, come undone. Allora, andiamo un po' veloci perché stiamo in ritardo sulla nostra tabella di marcia. Il prossimo duetto è composto da Shane McGowan, il cantante dei Pogues, e Sinéad O'Connor. Allora, questa collaborazione nasce quando McGowan lascia i Pogues, lui la abbandona al gruppo, forse viene cacciato visto le difficoltà del momento. Nel novembre del 91 esce appunto dai suoi Pogues, e dopo un paio d'anni in cui si dedica a vari progetti e collaborazioni, tra parentesi anche un bellissimo duetto con Nick Cave, insieme cantano What a Wonderful World. Insomma, dopo questi due anni fonda nel 93 un gruppo che chiama i Shane McGowan and the Pops, e con questo nome, con questo gruppo, pubblica il suo primo album come solista, che si chiama The Snake, un album molto sottovalutato e molto bello. L'album esce nel 94, esce però poi una seconda versione dell'album l'anno successivo, nel 95, con delle canzoni aggiunte alla scaletta. Tra queste canzoni c'è Haunted, che è appunto il duetto con una giovanissima Sinéad O'Connor, perché se la canzone esce nel 95, in realtà viene registrata nel 92. La canzone, per inciso, era una canzone già uscita con i Pogues, Haunted, era uscita nella colonna sonora del film Sid & Nancy del 1986, anche se in quel caso ovviamente non c'era Sinéad O'Connor a duettare con McGowan, ma la bassista, l'ex bassista del gruppo, Katie O'Riordan. Tra i due, tra McGowan e Sinéad O'Connor, nascerà una grande amicizia. Un'amicizia poi particolare, visto anche le particolari vite di entrambi. Arriverà a Sinéad O'Connor per dire di quanta libertà si è presa a denunciare, a far arrestare per possesso di eroina. L'intento era quello di salvarlo, McGowan nel 2001, anni dopo, passata l'incazzatura e anche passata la dipendenza dall'eroina, McGowan ringraziò però pubblicamente Sinéad O'Connor per quel gesto. Noi dobbiamo necessariamente tagliare i tempi, quindi taglio anche le mie chiacchiere. Shane McGowan insieme a Sinéad O'Connor, la canzone si chiama Haunted. Do you remember that sunny day somewhere in London in the middle of nowhere? Didn't have nothing to do that day, didn't want to do nothing. Got a way of walking. You got a way of talking. And it's something about you. Wanna be haunted by the ghost of your precious love, of your precious love. First time I saw you standing in the street, you were so cool you could have put out Vietnam. All the girls ask what's he like, I see. of walking. You got a way of talking, and it's something about you. It's the kind of girl I am. He's my kind of guy. And now I know I'll never ever want to be without. I wanna be hot about a ghost. I wanna be hot about a ghost. E noi ci avviamo alla fine della nostra trasmissione, che siamo in ritardo, ce l'abbiamo detto, tu Fabio sei abituato, per me è assolutamente una novità. Il prossimo brano, prima ancora di essere una bellissima canzone, si chiama Stella Maris degli Einsturzende Neubauten, o in qualunque modo essi si pronunciano, è soprattutto una splendida poesia. Sono due amanti lontani, due amanti che si cercano, anche il sottofondo è perfetto, Si chiamano questi due amanti, sognano di incontrarsi in giro per il mondo, negli abissi marini o nelle più alte vette montuose. In rete trovate la traduzione, è molto bella, ve la consiglio, soprattutto se la leggete mentre ascoltate il brano, dove si alternano momenti di canto singoli a momenti in cui, come nella canzone, le due voci si incontrano realizzando il sogno che rincorrono. L'autore del testo è Blixa Bargeld, il fondatore e chitarrista del gruppo, ha anche fatto parte lui per un certo periodo proprio dei Bad Seeds di Nick Cave che abbiamo ascoltato prima, ed è anche la voce maschile del quando hanno mandato il demo di Where the Wild Roses Grow, no? Ah? Quando Nick Cave ha mandato il demo a Kylie Minogue, la parte femminile la faceva lui. Ah, non lo sapevo, vedi? Invece la voce femminile è di Meret Baker, attrice e cantante tedesca, all'epoca moglie di Alexander Hage, l'altro membro del gruppo. La traccia è tratta da End Neo, album del 1996, e si chiama Stella Maris. Treff dich ganz tief unten, der tiefste Punkt der Erde, Marianengraben, Meeresgrund. Zwischen Nanga Parbat K2 und Everest, das Dach der Welt, dort geb ich dir ein Fest. Wo nichts mehr mir die Sicht verstellt, wenn du kommst, seh ich dich kommen schon vom Rand der Welt. Interessantes hier, die Ruinen von Atlantis nur, aber keine Spur von dir. Ich glaub, du kommst nicht mehr. Wir haben uns im Traum verpasst. Du träumst mich, ich dich. Keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du nicht von selbst erwachst. Übers Eis in Richtung Nordpol, dort werd ich dich erwarten, werde an der Achse stehen. Aus Feuerland, harter Traum. Zum Pol wird alles dort sich nur um uns noch drehen. Der Polarstern direkt über mir. Dies ist der Pol, ich warte hier. Nur dich kann ich weit und breit noch nirgends kommen sehen. Ich warf am falschen Pol. Keine Angst, ich finde dich, bevor du noch von selbst erwachst. Eldorado und das ist dein Heimatort. Warte an der Küste, such am Horizont, bis endlich ich sehe deine Segel dort. Doch der Captain ist betrunken und meistens unter Deck. Im Traum das Schiff nicht steuern, eine Klippe schlägt es leck. Im Nordmeer ist es dann gesunken, ein Eisberg treibt mich weg. Ich glaub, ich werde lange warten und bleibt unentdeckt. Wir haben uns im Traum verpasst. Du träumst mich richtig, keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du mich von selbst erwachst. Du träumst mich richtig, keine Angst, ich finde dich. Am Halbschlafbettchen pack ich dich und zieh dich zu mir. Denn du träumst mich richtig, ich träum dich, du nicht. Wir träumen uns beide. Pensi Ruzendere o Bauten, me la sono presa io la responsabilità. Bravissimo. Siamo arrivati alla fine. Vi ricordiamo di comunque di sostenere la radio, di abbonarvi. Trovate tutte le informazioni ascoltando la radio, oppure trovate tutte su ondarossa.info. Mi raccomando, fatelo, perché è davvero importante. Noi dicevamo, siamo arrivati all'ultima canzone in scaletta. L'ultima canzone si chiama Exile. E il duetto musicale in oggetto in questo caso è quello fra Taylor Swift, che firma la canzone e firma l'album da cui è tratta, che si chiama Folklore, e la voce maschile invece è quella di Justin Vernon, più conosciuto come Bon Iver, anche se Bon Iver è il nome del gruppo. L'album, tutto l'album, non solo la canzone, è prodotto da Aaron Dessner e The National. È un disco davvero, davvero bello, uscito lo scorso luglio, ha già vinto tanti dischi di platino, d'oro e quant'altro. Insomma, lei è un'artista che vende decisamente tanto, soprattutto negli Stati Uniti. L'album, tra le particolarità, c'è il fatto, come forse tanti altri, è stato interamente scritto e registrato nel primo periodo di lockdown, appunto della scorsa primavera. Exile, la canzone, è una canzone che racconta ancora una volta del dolore provocato dalla fine di un amore. È un tema che ricorso spesso in questa puntata, anche qua, no, anche qui non volendo. Il pezzo è una conversazione sofferta tra una coppia ormai in crisi, e il contrasto di voci tra Taylor Swift e Justin Vernon mette ancora più risalto l'intensità di questo dialogo, un dialogo in cui ognuno cerca di far valere, di difendere e di far valere le proprie ragioni. Soltanto su un punto la coppia è d'accordo: il loro amore, quando stavano insieme, era visto, lo vedevano come una fortezza che dovevano difendere a tutti i costi. Ecco, ora non hanno più nulla per cui lottare, e tu, entrambi si sentono due esiliati, si sentono in esilio, appunto, exile, con questa metafora. Me lasci noi così. Vi salutiamo, noi ci sentiamo martedì prossimo. Alla prossima, lei, grazie a chi ci ha ascoltato. Insieme ai Bon Iver. E ciao a tutti e a tutti. I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing, but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. I can see you staring, honey, like he's just your understudy, like he'd get your knuckles bloody for me.